schiacciato. Ci mancherebbe. Comunque Giulio, scusa da parte di Fabio, non si è accorto di niente, assolutamente, tra l'altro non è successo niente di grave, anzi ci fossero le persone educate che si scusano certe volte quando succedono queste cose anche senza motivo, come è successo adesso. No, ma no, niente da dire, per carità, ci mancherebbe altro, assolutamente no. Intanto saluto a Marino, ciao Marino. Ciao Giulio, ben sentito. Non lo ascolti a Fabio, quando arriva a Santiago di 8, 7 e mezzo, 8 più o meno, la radio è un po' bassina, comunque già lo ascolto bene, diciamo, anche se sto usando un ventilino, più dai, riprendete, scusate, io non ascolto, sto terminando qualcosa al computer, riprendi Giulio, scusa, ciao. Scusatemi Giulio. Sì, avanti. Vabbè, vi devo lasciare, mi hanno chiamato, dai, ciao Giulio, ciao Fabio, ciao Marino e tutti gli eventuali amici, io faccio corretti per causa a pranzo, dai. Ci sentiamo magari più tardi, Fabio, Marico, continuiamo la conversazione interessante, ciao ciao a tutti. Ok, ciao Robert, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Fabio, ti saluto perché intanto noi non possiamo sentirci, dunque non è inutile stare di frequenza con te. Provvedi a mettere l'antenna, così almeno avrò il piacere di ascoltarti, oh Fabio. Speriamo quanto prima che tu possa risolvere questo problema per il baracchino. Ok, avanti Marino, mi dicevi? Buongiorno e buona domenica da Vipo Valencia. Tu buongiorno anche a lei, tutto è cambiato. Che domani quando esce la sabato, domani sono il fine, sono il fine. Passo la casa tua e mi porto via, quarantena che è tolto. Tutto qui, adesso chiudo che mi stavo chiamando, avanti giù. Ok, d'accordo Marino, ci sentiamo, dai. Saluto un amico di Venezia, con il buongiorno, Giulio da Sassari, Sardegna, avanti l'amico di Venezia. Ciao Roberto, sono Santino Delta 4 e trasmetto da Vibo Valencia, ok? Calabria. Ah, da Vibo, avevo capito Venezia, ok. Ciao Santino, salutoni, ben ascoltato, mi arrivi molto bene qua. La radio bella, perfetta, chiara, potente anche. No, stavamo parlando qui con un amico della mia stessa città che non riesco ad ascoltarlo in quanto sta uscendo con un antennino e tutta indirizzata da altra parte dove appunto non sono io, e per quello appunto alcuni di amici lo sentono ma io non lo sento assolutamente. Va bene, avanti Santino con il buongiorno di nuovo. Ok, perfetto, guarda, complimenti, benissimo. Poi l'altro amico che è giunto, arrivate proprio, c'è una bella provocazione, io ho trasmesso da Vipo Valencia centro, ok, la radio è un radio... Giulio! Non so se lo ricordo, se lo mando a Maria. Sì. Ok. Ok, ti mando un amico qui nelle mie vicinanze di Sassari stesso, si chiama Marino, che adesso ti mando avanti per i saluti. Avanti Marino per l'amico di Vibo Valencia. Benissimo, ciao Santino, ben sentito, sento la voce che lo sapevo a te con la familiare. Il tuo rapporto lo sentiamo di nuovo, Radio 5 Perfetta qui a Sassari. Ok, avanti Santino, cambio. Buongiorno a tutti, dai, Gianni Doppio Rullo. Ho sentito l'amico di fuori, vediamo un po' come mi ascolta, che ho provato a mettere un'altra capsula con questo microfono, vediamo se va bene. Avanti l'amico per Gianni Doppio Rullo della città di Sassari, avanti. Sì, positivo che ti ascolto, dai, ti ascolto, non ho capito il nome, però ti ascolto abbastanza bene pure a te. Arrivate tutti bene qua a Vibo Valencia in Calabria, dai. K, dai. Va benissimo, dai. Io volevo sapere più che altro la modulazione come arrivava, perché ho cambiato la capsula del microfono, perché non andava. Puoi darmi un controllo di radio, grazie. Sì, positivo. La radio è ottima, la radio è ottima. La radio è super controllata. Ok, perciò la capsula va benissimo. Cappa, ti ringrazio, dai. Riprendete il QSO Giulio, dai, che sto pulendo e ho sentito l'amico, volevo vedere un po' come andava questo microfono. tu come lo ascolti? E ho messo quella capsula verde. Ti ascolto bene, già, anche troppo forte, figurati. Per me è addirittura anche troppo forte, ma l'amico Santino, non vivo a Valencia, naturalmente è lontano e ti ascolta sicuramente meglio di me, perché appunto, ripeto, è molto ma molto forte quel microfono. Va bene, avanti ancora Santino, per cortesia se mi puoi dare un QRK anche per me, io ti do il tuo ed è 9 e 5 del radio, 9 di Santiago, 5 del radio. Avanti Santino ancora, per Giulio, K. Giulio, poi ci sono il 100%, dai. Ma arrivi intorno a 9.5-9.10. Bella stereofonica proprio, ok Giulio, a te K. Ok, grazie, grazie Santino per il controllo. Evidentemente siamo pari merito come segnale, come radio, perché altrettanto ti dico, per la tua radio e per il tuo segnale, ultimamente bene. Vediamo se c'è ancora Marino, ma suppongo di sì. Marino? Sì, riprendo io il super saluto perché mi stavo chiamando, ok. Santino, se non ti dispiace, un QRK appena per lei, dopo ti saluto e che mi stavo chiamando per la carica. Avanti Santino, cambio. 16, dopo 145. Sì, mi ricordo al 100%, Santino, ok, dovevo fare QRT, carica, carica, diciamo la carica. Avanti, ciao, ciao. Ok, ciao Mari, stai strappando alla grande, stai strappando moltissimo Mari, perciò regola. Sì, poi c'era anche qualcuno che metteva la portante ad intermittenza, vabbè, quello è il solito pellegrino che ogni tanto qua si fa sentire per fare gli spetti, comunque non ce la fai a coprire Santino, guarda, questo lo sappi, così non sei nemmeno capace di mettere la portante. Ok Santino, io ti ringrazio per il QSO e ti auguro un buon appetito, visto e considerato che è quasi l'una, per cui ti lascio e vado a pranzare. Ok Santino, salutoni ancora, grazie ancora per il collegamento, Sassari ti saluta a te e a tutta la Calabria. Ciao Santino, grazie ancora, ascolto fino a io, dopodiché chiudo, ok? Ok, grazie a te Santino, alle prossime, sperando di riascoltarci molto presto, ciao ancora Santino, grazie. Giulio. Quella verde, come va? Ciao Gianni, non c'è Luca? Ah, mi sembrava Luca. Ah, detto prego. Se ce li amo, sogno, se ce li amo. Ciao Tino. Ciao, ciao. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata, si sintonizza in ascolto. Brecco, brecco. Cappa, dai. Buongiorno, buongiorno, doppio run da questa parte, con chi abbiamo l'onore di parlare? Qua Condor, Polizena, Sud Italia. Attenzione, l'amico che è davanti, brecco. Cappa che ti copio al 100%, avanti. Città di Sassari, Sardegna. Sei un Santiago di 7, una radio di 5, dai. Contraccambio anche a me il segnale, cambio. Oh, mai lame. Ma non so bravo là. Tino, questa come va la capsula? Va meglio? Secondo me sì, basta che non lo usi, non devi urlare già, perché sennò si sente che stai parlando a voce alta, ma tranquillo, moderati. No, non sto parlando a voce alta, è la mia voce, sì, questa qua. Chiappa. No, perché hanno, mi hanno detto, Tino, come va? Ho dato tutta la voce. Va bene, anche se non urli già, va bene, va bene. La capsula ci voleva di quelle testa verde. Non la conosco, non so neanche cosa ho io qua, figurati. E ci sono quelle marroncine, qualcosa marroncino dietro dove saldi, e ci sono quelle verdi. Quelle verdi sono le migliori, sono quelle che mettono anche nei citofoni, eccetera. Ah, mi ricordo. Sì, infatti Antonio una volta mi aveva detto, ti ho messo quella del citofono. Ho detto, ah, vabbè, se va bene va bene. Quelle sono le migliori. Vediamo un po', attenzione, nord e sud Italia, se ascoltate l'isola sarda, cambio. Ma nord o sud? Tutte e due, nord e sud Italia. Io sto chiamando a loro, che sia a nord che sia a sud, a me non mi interessa, interessa di essere di pure. Mannaggia, non riesco a trovare, avevo un cavetto che avevo preparato per il più 5 col president, non riesco a trovarlo. E rifallo chi? Ma c'è stamattina cosa ho trovato a fianco a casa metto la Mondezzi? Dimmi. Una frusta nera completa con l'attacco. Bene, schiattatela. Mi devo mettere solo il capo, non so se sia 5 metri o 4 metri e mezzo, adesso devo vedere. Se non è che mi compro una di quelle antenne con la farfallina che costano poco, se mi metto l'attacco di quella lì, tanto vanno bene, sono uguali. Praticamente quella lì c'è l'attacco a farfallina, ce l'hai presente? Sì, quella con l'occhiello alla farfallina, già ho capito. Vabbè, è antipatico quell'attacco, a me non piace tanto, però era meglio quello della Sigma, eccetera. Però quella lì è un'antenna che va forte. Il problema, Tino, è questo, che praticamente c'è un pezzo di filo attaccato ed è saldato, eccetera. Però la parte del bulone dove si attacca, quello che si attacca alla capota per intenderci, il perno e poi va avvitato, quello lì non si vede solo, esclusivamente la saldatura e basta, non capisco come cavolo hanno fatto attaccare la capota. Non lo so, scusami già, dai, che c'ho gente a casa e non posso, intanto c'è Bailame, qui ce ne andiamo per il pranzo. Va bene, dai, sentiamo stasera se coincide già. Buon collegamento. Dai, cosa è collegamento? Sto finendo di pulire casa, ho sentito gente di fuori e mi sono affacciato, dai, volevo vedere come arrivavo. Ehi, va bene, ciao. Ciao Tino, ciao. Attenzione, brecca canaletta, c'è qualcuno che mi ascolta, puoi andare. Attenzione, canale 10, dipartimento 165, nord Sardegna, chiama, cambio. Ora, attenzione, canale 10, cambio. Attenzione, canale 10, ascoltate l'isola sarda che chiama Gambiu. Prego. Certo che ti sento, un attimo il brecco, avanti l'amico che hai tu mi senti, certo che ti sento, avanti, l'operatore Gianni Doppio Room del QTH di Sassari, avanti. Avanti con il brecco. Avanti l'amico che ha breccato, va. Salutoni a tutti. Attento Sud Italia, se ascolti l'isola della Sardegna, la città è Sassari, avanti. Reggio Calabria, ascolti la Sardegna, cambio. attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto, break over. A parte chi chiama la Sardegna? Troppo bellame, ciao a tutti! Troppe chiamate. Attenzione, Nord Italia, se ascolti l'isola sarda, cambio. Bergamo, Portugal. Mario Alfa, India, capital de Portugal. Tengo 351, mi amigo, que es muy bien escuchado aquí a Portugal, ¿ok? Que grande, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, ¿ok? Por el contacto. Ok, 73, 52 y un buen domingo, ¿ok? Para seguirte. Ya estamos haciendo atenciones preco, positivo, sería de este, ya va el kilómetro 3 y 4. Su 10, che c'è? Sì, ciao, buongiorno a te, l'amico della Calabria, qua Roberto, città di Sassari, che ti cordializza, avanti. Sì, me l'ha ascoltato, ti do un rapporto di segnale oltre 9, la radio Super 5 stereofonica, se mi vuoi confermare anche il tuo rapporto. Santiago 8, modulazione 5, dai, buona, la bella propaganda. Ok, puoi dire le tue condizioni di trasmissione se vuoi dirlo. È una Lancetta 8, è un Salerno Ecomaster Blu, tutto originale. E antenna? Che antenna stai utilizzando? Mantova 1. Ok, anche io utilizzo la Mantova 1, un apparato della Kenwood, un K44 e la microfonia è un MC60. Forse è abbassata la propagazione adesso 6-7, però la radio è sempre 5, è buona e forte. Ok, e oggi si è aperta abbastanza la propagazione, ci sono un sacco di regioni che si stanno facendo sentire, oltre che naturalmente la Spagna che qua arriva quasi sempre, dai, quasi tutto là. Ho capito, è acceso Jackson e col suo microfono. Purtroppo adesso si stanno accavallando i segnali, le modulazioni. Ho capito, Jackson con un tunnel più 3, confermi? Purtroppo ti sto perdendo, adesso la propagazione c'è molto QSB, dai, ci sovrappongono. Se mi ascolti ti saluto, dai, un piacere ascoltarti anche se per breve termine, dai. Se coincide, se capiterà altre occasioni, magari sarà meglio, dai.